Benissimo, allora direi che possiamo iniziare con la nostra serata. Volevo ringraziare innanzitutto Roberta Benatti perché tanti mesi fa era venuta qui da noi in biblioteca e ci aveva proposto questa presentazione, questo libro, e ci ha subito appassionato, anche perché questo è un tema che si riallaccia anche agli impegni che ci siamo presi con l'Agenda 2030 e con la diffusione di tutti gli obiettivi che la biblioteca cerca di far conoscere attraverso tante iniziative, e quindi per senso civico, per impegno civile anche, no? Che la biblioteca ha come missione quella di offrire il più possibile delle occasioni di incontro, di confronto e soprattutto di conoscenza più ampio possibile. E ci è sembrata una bellissima occasione, quindi ringrazio innanzitutto Roberta Benatti per questo impulso che ci ha dato e questa bella occasione di incontro. Ringrazio voi tutti che siete qui, tutte le signore e signori che sono qui presenti, e chiaramente ringrazio anche i nostri ospiti che vi presento. Allora, abbiamo con noi questa sera Lorenzo Zambello, che ci accompagnerà nella presentazione del libro. Abbiamo con noi l'autrice Donata Emilia Cmilazzi. Abbiamo con noi anche Sara Degli Agostini, con cui ci conosciamo, ecco, da tanto tempo, condividiamo anche l'edificio, vero? Ecco, e soprattutto siamo contenti di poter questa sera ricordare, conoscere e approfondire la conoscenza anche della nostra Maria Silvia Spolato, che era una grandissima frequentatrice del centro Trevi, una persona di grande cultura e umanità, che ha saputo farsi voler bene anche da tutti noi qui in questo centro, e dalla quale abbiamo anche imparato un sacco di cose, perché sapeva comunicare, ecco. E è stata una perdita, perché la sua vita ha coinciso con un cammino di tante persone qui a Bolzano, e quindi siamo contenti di che questa sera ci sia l'occasione, grazie a Don Elisha, grazie a Gocce Troffen, grazie a Centaurus, e dimentico qualche associazione, non vorrei... Oui. Ce l'ho qua dietro, ecco. Grazie a tutti voi, possiamo realizzare questa bella mostra, questa occasione di conoscenza e soprattutto ascoltare dalle parole della nostra autrice Donata Milazzi e dai nostri ospiti qualcosa in più da questo libro che vi invitiamo a leggere, come anche vi invitiamo così a vedere quello che la biblioteca offre. Qui c'è un piccolo saggio di tutte le nostre così offerte di lettura legate a questi temi. Ne approfitto sempre, visto che il pubblico è bello vivace ed interessato, per fare due spot, me li concedete? Domani sera invadiamo di nuovo il Trevi Lab, ecco, perché siamo un po' prepotentini ogni tanto. E allora, visto che la sala era libera, il 24 aprile, domani sera alle 17:30, ci sarà Giacomo Sartori insieme ad Alberto Faustini, che presenterà un libro, Coltivare la natura. Anche questo è legato al tema sempre dell'Agenda 2030, questa volta però non più nell'ambito sociale, ma in un ambito più ambientale. Ecco, quindi questo è un libro. Poi dopo invece, questo è il 24, invece domani sera, il 23, avremo un libro di storia, Anelli d'Italia, un percorso dagli Indoeuropei fino all'Unità d'Italia. Sono vari volumi, e domani sera il primo volume viene presentato da due signori, da Minniti, Mauro e il figlio Maurizio. Ecco, appuntamento sempre domani sera e dopodomani sera alle 17:30 qui al Trevi Lab. Cedo la parola subito ai nostri ospiti, vi ringrazio tantissimo e una buona serata a tutti. Si sente? Sì, si sente. Buonasera a tutte e tutti e tutto. Siamo molto contenti che la sala sia gremita. Voglio innanzitutto dare un caloroso benvenuto all'autrice, Donata Emilia Cmilazzi. Tutto meritato. E naturalmente al nostro fotografo d'eccellenza, Lorenzo Zambello. Doveva essere presente anche Luca Fregona, caporedattore dell'Alto Adige, ma purtroppo ha avuto sopraggiunto un impegno, quindi non ha potuto esserci, e comunque è con noi col cuore. E voglio innanzitutto ringraziare per l'ospitalità il Centro Trevi, la Biblioteca Claudia Augusta e naturalmente tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi a questo grande progetto. E questo in realtà è un pre-evento che viene inserito come presentazione per il Pride che abbiamo in programma di fare il prossimo anno. Quindi inviterei uno dei rappresentanti del direttivo della neonata associazione Alto Adige Pride Sud Tirol, Alto Adige, e Andrea Trigolo, se vuole dire due parole per questo nostro obiettivo. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte e a tutto. Sì, sono Andrea Trigolo del Consiglio Direttivo dell'Alto Adige Pride Sud Tirol. Siamo nati a dicembre, il 6 dicembre del 2023, e porteremo il primo Pride Alto Adige in Alto Adige nel 2025. Ci saranno tutta una serie di preventi prima, quindi seguiteci sia sui canali social di Instagram, ma non solo, anche abbiamo un sito pride.bz.it per trovare tutte le informazioni. Grazie a Gocce e a tutti gli altri che si sono dati da fare per farci entrare in questo pre-evento. Grazie mille, grazie e buon lavoro. Grazie Andrea. Ecco, io non porterei via altro tempo e partirei subito con le domande alla nostra autrice. E anzitutto, perché Maria Silvia? Perché la scelta di questo soggetto? Ciao a tutti, buonasera. Maria Silvia perché tutto nasce da una strana serie di coincidenze. La mia amica Elena, che questa sera è qui, è venuta da Trieste a Moso, a Bolzano, mi ha fatto leggere un articolo che è apparso sul quotidiano Alto Adige il 7 novembre 2018. Io con le date sono un po' una frana. Quando ho letto questo articolo, la storia di Maria Silvia mi ha colpito tantissimo. Da lì ho detto, io vorrei sapere qualcosa di più su Maria Silvia. E l'unico modo era venire qui a Bolzano, al suo funerale. Per 16 giorni sono stata veramente indecisa su cosa fare, perché partecipare al funerale di una perfetta sconosciuta, non sapevo veramente se era il caso, non era il caso. Per cui sono stata combattuta. Alla fine ho detto, io vengo da Trieste, non potevo prendere ferie, e quindi se verrò innanzitutto a sapere la data del funerale e se sarà in un orario che riesco a venire in giornata, vuol dire che destino vengo. E così è successo, perché il funerale di Maria Silvia era all'1:15, che è un orario un po' particolare, perché io né prima né dopo ho partecipato a una funzione a quest'ora, e quindi sono riuscita a venire a Bolzano, e in quell'occasione ho conosciuto proprio Lorenzo. È stato il secondo via, l'anello che è partito di questa catena incredibile di eventi che mi ha fatto conoscere la storia di Maria Silvia. E più andavo avanti e più conoscevo la sua storia e le persone che l'hanno conosciuta e che sono state vicine a lei, più questo tutto quello che sono venuta a conoscere mi ha arricchito profondamente. Ho avuto la fortuna di conoscere veramente donne, uomini eccezionali, e di questo ringrazierò sempre Maria Silvia. Grazie, grazie per le tue parole. Credo che Maria Silvia apprezzerebbe. Sì, ci sono persone che hanno conosciuto Maria Silvia, come Lorenzo Zambello, ma anche io stessa, e siamo onorati di aver avuto questa occasione. E sicuramente era un personaggio molto molto eccentrico e particolare, soprattutto se accenniamo un attimo al contesto storico nel quale Maria Silvia ha dato via a tutta una serie di eventi che poi porteranno purtroppo a un grande cambio nella sua vita. Lei era nata a Padova nel 1935 e si era laureata, non a pieni voti come era stato accennato inizialmente, però era una testa, una persona sicuramente da conoscere. E lei ha sempre voluto fare qualcosa in più oltre al fatto di insegnare matematica, che era la sua prima passione, e si è dedicata per anni all'attivismo, soprattutto al femminismo e poi di seguito al lesbismo. E purtroppo erano anni molto difficili al tempo per vivere, stiamo parlando dei primi anni 70, quindi più o meno il contesto storico era quello. Si viveva la seconda ondata del femminismo, che partiva più o meno dagli anni 60 agli anni 80, e tutto verteva riguardo i diritti che le donne cercavano di ottenere e che ancora all'epoca non c'erano. Stiamo parlando del diritto al divorzio, il diritto all'aborto, che come sappiamo sono state delle lunghe battaglie e hanno coinvolto generazioni di donne, e nonostante tutto ancora oggi siamo ancora qui a parlarne e a combattere, perché non sono ancora dati per scontati, purtroppo. E negli anni 70, come dicevo, c'è stato un gran fermento sociale, chi ha qualche anno in più probabilmente lo ricorda, li ha vissuti più o meno attivamente. E Maria Silvia si è data un grande affare e teneva relazioni con l'estero, quindi è venuta a contatto con personaggi all'esterno anche nell'Italia. È stata una delle fondatrici della rivista FLO e poi del movimento Fuori con Angelo Pezzana. In Francia, io penso, poi magari mi confermerai tu un po' più approfonditamente, c'era un tipo di femminismo che, da cui poi in Italia ha preso un po' i movimenti maggioritari dell'epoca. E si parla soprattutto del movimento femminista della differenza. E oggi le cose sono molto cambiate, sono evolute, e si parla di un femminismo, sì, della differenza in parte, ma anche un femminismo molto più intersezionale, ossia che comprende molti più aspetti della persona, perché noi sappiamo che l'essere umano è un essere complesso, per cui ci sono molti più aspetti da tenere in considerazione. Vorrei che ci parlassi un po' appunto di come è nata il suo attivismo, un po' quello che hai scritto nel libro, che ho trovato molto interessante, soprattutto appunto ho portato il libro perché volevo approfondire un po' un discorso su Simone de Beauvoir, per cui lei appunto è stata anche, ha avuto l'occasione insomma di conoscerla personalmente. Vuoi dirci due parole a riguardo? Maria Silvia ha conosciuto Simone de Beauvoir in varie occasioni. È andata a Parigi, e qui c'è un piccolo inciso, a Parigi Maria Silvia ha conosciuto i giovani ragazzi del Fuori, perché in Italia non era possibile avere un'informazione capillare sul territorio nazionale. Quindi lei dice: sono dovuta andare a Parigi per scoprire che a Torino era nato il movimento Fuori, appunto con Angelo Pezzana, e quindi si reca a Parigi e a Parigi scopre del Fuori. Poi si recherà nuovamente a Parigi e in quell'occasione incontra Simone de Beauvoir. Adesso, come dico sempre, la mia memoria è quella che è, quindi devo controllare la data, perché era intorno all'11 maggio del 71, e viene fatto un processo contro sui crimini contro le donne. Sono delle giornate di maggio in cui appunto Maria Silvia è presente con le femministe del Pompeo Magno, e in quell'occasione appunto è presente anche Simone de Beauvoir. La incontrerà nuovamente a Roma e la intervisterà. E infatti sul uno dei numeri del Fuori c'è l'intervista di Maria Silvia a Simone de Beauvoir e mi ha fatto così riflettere pensando, riportando un po' la situazione ai giorni nostri, che recarsi da in quegli anni Simone de Beauvoir era già una scrittrice affermata, quindi presentarsi a lei, cosa può aver provato Maria Silvia di fronte a questo colosso, perché Simone de Beauvoir ha scritto dei testi fondamentali, tipo appunto questo, Il secondo sesso. E quindi Maria Silvia appunto ha avuto varie occasioni di incontrarla. Siamo curiose di sapere che cosa si saranno dette, perché Simone de Beauvoir, come diceva appunto Donata, era già molto conosciuta all'epoca, lei era compagna di Paul Sartre, molti di voi la conosceranno e alcune di voi avranno anche letto il libro, e era una filosofa, e è morta purtroppo nell'86 e ha dato un enorme contributo a quello che sono un po' i fondamenti del femminismo, e anche per noi italiane, perché non solo in Francia insomma era conosciuta, ma anche molto in Italia. Ho trovato molto curioso il fatto che tu hai portato diverse citazioni nel libro di Simone de Beauvoir e volevo parlare un po' anche con te di questa cosa, proprio perché tu, avendo, come mi hai detto, in diversi colloqui insomma, privati che abbiamo avuto, tu come se parlassi direttamente con Maria Silvia e come se lei ti facesse sapere quello che pensava, un po' quello che provava. E ho trovato molto bello questo dialogo, perché il libro è scritto in forma di dialogo tra lei e Maria Silvia, e l'ho trovato veramente effettivamente coinvolgente. E mi chiedo se su alcune idee che aveva Simone de Beauvoir, per esempio riguardo l'esbismo, che è stata anche piuttosto criticata, e io sono d'accordo anche onestamente un po' con queste critiche riguardo la sua opinione sulle donne lesbiche, perché l'ho trovato, bisogna anche contestualizzare che erano dei tempi diversi rispetto ad oggi, ma l'ho trovato piuttosto stereotipato, no? E parlare di invertite, come si usavano queste parole all'epoca, oggi non ci sogneremo, a parte alcune frange politiche, però diciamo che non è cambiato il linguaggio, è cambiato il pensiero di conseguenza. Quindi mi chiedo se Maria Silvia l'abbia, come dire, stimolata ad avere un approccio differente riguardo le cose che lei aveva scritto. Vorrei sapere tu che cosa ne pensi. Questa non è per niente una domanda facile. Quello che pensi tu, naturalmente. L'idea che mi sono fatta di Maria Silvia, sì, tra l'altro apro un inciso, il libro è scritto in prima persona e mi è venuto così. Se qualcuno mi chiede ma perché l'hai scritto in prima persona e non in terza persona, che sarebbe stato molto più semplice, posso dire perché così doveva essere. Mi sono immersa così tanto nella storia di Maria Silvia che, rileggendolo adesso, io certe parti dico non le ho scritte io, assolutamente non, come posso aver scritto tutte le parti che riguardano Maria Silvia. Per cui fare adesso a freddo un'analisi su quello che può aver pensato nei confronti di Simone de Beauvoir, devo dire, mi riesce veramente difficile. Dovrei proprio rileggere quelle parti. È come se Maria Silvia, non so, avessi scritto sotto il suo influsso, perché veramente non me ne capacito. Lo dico proprio senza alcun problema. E l'idea del dialogo, perché in questo libro c'è una storia dentro una storia. Volevo raccontare come ho scoperto io la storia di Maria Silvia e attraverso quali coincidenze, che posso dire solo pazzesche, assurde, venivo a scoprire nuovi dettagli della sua vita. Mi ricorderò sempre che la cognata di mia sorella lavora tuttora a Padova, alla facoltà di matematica, che è proprio dove Maria Silvia si è laureata. E quindi quando me l'ha detto, ho detto non è possibile. Le ho chiesto, ma scusa, è possibile avere un accesso agli atti? Ha detto sì, tu fai richiesta. E quindi grazie alla segreteria appunto dell'università sono andati a cercare la sua tesi, perché quando nel 2018 appunto poco dopo ho fatto richiesta non si sapeva neppure se quella tesi esisteva ancora, perché l'informatica ancora eravamo benché lontani, perché lei si è laureata nel 61 e quindi era tutto cartaceo. Quindi sono andati a cercare negli archivi cartacei per trovare i documenti, hanno trovato la tesi, quindi grazie a loro mi hanno mandato le fotocopie della tesi, del libretto, per cui c'è la foto della mostra, quella è la foto del libretto di Maria Silvia a 18 anni. E quindi succedevano queste cose così, e questo è un esempio dei tanti che mi è successo. Da qui è nata l'idea del dialogo, perché volevo anche raccontare come scoprivo di volta in volta queste notizie su Maria Silvia. E ancora oggi io dico, ma e soprattutto tutti gli anni in cui ho scritto il libro, io dicevo Maria Silvia, se vuoi che venga fuori qualcosa, tu falla venire fuori. E così succedeva, così è successo per la Pirelli, che altre persone hanno tentato di contattarla e non hanno avuto risposta. Io ho mandato una mail alla fondazione e ho chiesto, visto che Maria Silvia ha lavorato dal 61 al 66 alla Pirelli, ho chiesto se era possibile sapere qualcosa e mi hanno mandato il suo curriculum, quindi tutta la storia lavorativa di Maria Silvia. La stessa cosa mi è successo col comune, il comune di Padova. Io ho chiesto, sto scrivendo la sua biografia, è possibile avere lo stato storico di famiglia? Loro me l'hanno mandato, cosa che il comune di Torino, che volevo scoprire qualcos'altro su un ramo della sua famiglia, mi ha risposto no, per la privacy non possiamo mandarlo. È stato un po' come seguire le bricioline di pane, no? Questa immagine di Donata che segue le tracce piano piano lasciate da Maria Silvia qua e là. È stato un lavoro arduo, poiché Maria Silvia ha proprio voluto scomparire a un certo punto della sua vita, dopo quella famosa apparizione in piazza Campo dei Fiori del 72 in occasione della giornata internazionale della donna l'8 marzo, dove lei appunto, come vedete lì, compare con un cartello con scritto liberazione omosessuale, e è comparsa sul venerdì di Repubblica. E vorrei che tu raccontassi appunto l'aneddoto, perché è stata fatta quella foto e perché era presente soprattutto un personaggio che in quel momento era lì in piazza, e per caso, tutto per caso, perché alla fine non era nulla di programmato. E come è accaduto a te appunto di venire a contatto con certe persone, sapere certe informazioni, così anche in quel caso il destino ci ha messo lo zampino. Esatto, vuoi dire due parole? L'8 marzo del 1972 è per Maria Silvia una data spartiacque, c'è un prima e un dopo, perché in quella data lei appare col cartello Fronte di Liberazione Omosessuale. Non sarebbe successo forse nulla se in quella stessa occasione Jane Fonda, che aveva saputo di questa manifestazione a Campo dei Fiori, è apparsa. I giornalisti, non appena hanno saputo che c'era Jane Fonda, sono accorsi a frotte e quindi l'hanno intervistata, fotografata, e nel fotografare Jane Fonda hanno fotografato anche Maria Silvia col cartello. Questa foto è finita sul numero di marzo di Panorama del 72. Essendo una rivista di diffusione nazionale, ha avuto un eco notevole. Quindi Maria Silvia si è trovata dall'oggi al domani, lei insegnava prima a essere demansionata e poi alla fine licenziata come indegna all'insegnamento. Questo me l'ha raccontato la Anna Rapp, una delle sue amiche romane. Lei mi diceva, sono andata con Maria Silvia al provveditorato e lì avevano un fascicolo su di lei. All'interno di questo fascicolo c'era la foto di Panorama. Maria Silvia era anche una sindacalista, quindi sicuramente dava fastidio, per cui hanno cercato l'occasione per allontanarla dalla scuola. Sì, questo purtroppo è il sunto un po' di tutto quello che è accaduto. Ha pagato veramente in modo molto pesante questa sua, questo suo coraggio, questa sua visibilità. Noi si parla molto spesso nella comunità LGBT di visibilità, perché senza visibilità le persone non hanno occasione di dire al mondo: io ci sono, io voglio vivere liberamente il mio essere, quello che sono, quello che rappresento. E credo che sia un diritto, dovrebbe essere insomma un diritto umano per tutti quanti e tutte quante, e invece ancora purtroppo oggi non lo è. Vogliamo ringraziare appunto questo coraggio, perché le persone che hanno questo modo di vivere sono veramente molto poche. E ci sono paesi ancora nel mondo purtroppo dove esiste ancora la pena di morte per persone omosessuali o che si dichiarano tali, oppure che vengono incarcerate, torturate, e per fortuna ci sono sempre meno i paesi. Cerchiamo di parlarne di più e di cercare di essere a loro vicini. E anche l'occasione di questo libro è sicuramente un grande tassello per la comunità LGBT italiana, e spero che venga tradotto anche in altre lingue, onestamente. E vorrei procedere insomma con un'altra domanda che mi ero scritta, aspetta che devo riattivare. E in realtà è una domanda che volevo fare ad entrambi. E secondo voi che cosa deve avere, e tramite le immagini e tramite la scrittura, una storia che merita di essere raccontata oggi come oggi? Perché noi leggiamo tantissimi libri, abbiamo l'occasione di venire a contatto con i social che un tempo insomma non c'erano, e sicuramente le immagini oggi come oggi hanno un peso molto maggiore rispetto al passato, ma sicuramente anche le parole. E mi piacerebbe sapere da voi appunto cosa deve avere, secondo voi naturalmente, una storia che merita di essere raccontata. Io sarò molto breve. Trattandosi di una biografia, in questo caso deve essere quanto più possibile vera. Nel mio piccolo ho cercato di essere imparziale, di non metterci niente di mio nella parte che riguarda Maria Silvia. Quindi ho cercato di essere quasi estraniarmi, di contropartita lavorare sulla mia parte. E quindi secondo me per scrivere un libro innanzitutto ci deve essere coerenza, verità, e anche se alle volte una cosa può dar fastidio o provare ritrosia, ma se la cosa è giusta da fare, quella cosa va fatta. Questo secondo me dovrebbe essere sulla scrittura, quindi innanzitutto verità e coerenza. Bella domanda. Allora, io scatto foto praticamente, cioè tutti i giorni. La foto che ti racconta qualcosa è difficile, è molto difficile. Ci spazia dalla cronaca nera per arrivare alla cronaca politica. Chi guarda il giornale o chi guarda i media a trovare una storia che lo coinvolge. Magari la foto che ho scattato io, magari a me dà qualcosa, a un'altra persona non dà niente. È molto difficile, dire cos'è che colpisce una persona, molto difficile. Sta poi il fotografo, il cineoperatore, trovare la situazione neutra dove non ci sia l'interpretazione di nessuno. È diverso il lavoro del giornalista di quello del fotografo. Il giornalista interpreta, scrive, e invece il fotografo è quello che immortala e non aggiunge altro. C'è una grossa differenza tra i due. È bello quando due, fotografo e giornalista, riescono a lavorare all'unisono, e allora lì viene fuori qualcosa di più, gli viene veramente fuori un qualcosa in più. Purtroppo non è così, non sempre, l'80% dei casi non è così, perché uno lavora da una parte e uno lavora dall'altra, però quando si lavora insieme e c'è un buon affiatamento si riesce a tirar fuori un pezzo che colpisce. Questa è un po' la fotografia professionale, dico fotografia professionale, non la fotografia, perché un po' tutti siamo fotografi, un po' tutti scattiamo, però chi lo fa di professione si ritrova in delle situazioni che la persona normale non c'è. Ecco, questa è la mia interpretazione di fotografia e di giornalismo. Grazie ad entrambi, avete fatto sicuramente un ottimo lavoro. Volevo dire che sia la scrittura sia le foto ci hanno permesso di inaugurare questa splendida mostra e offre testimonianze della vita di questa persona e non possiamo che ringraziare insomma chi l'ha scattata. Volevo far notare appunto alcune foto che sono state fatte, per esempio qui nella prima c'è la tomba di Maria Silvia. Volevo dire due parole riguardo a questa cosa, perché quando c'è stato il funerale, eravamo presenti, però non ci conoscevamo io e Donata, abbiamo avuto l'occasione poi in seguito di scambiarci alcune mail, alcune informazioni prima di vederci. E, la tomba non era così, era molto differente, era una tomba molto semplice, fatta appunto di una piccola lapide, fatta appunto dal comune con alcuni sassi, e c'è chi portava fiori, e una cosa particolare che la sua amica Hilda le aveva fatto scattato una foto con in un contesto di cruciverba. Lei amava tantissimo il cruciverba, Maria Silvia, e lo faceva quotidianamente. E l'ho trovato molto, molto significativo e sicuramente consola una persona. E era una tomba un po' troppo semplice, abbiamo pensato. Quindi abbiamo lanciato volevamo lanciare una petizione per raccogliere dei fondi e farle appunto una sepoltura più degna assieme all'associazione Centaurus. Destino vuole, perché questa parola destino continua a tornare in voga, destino vuole che tra la folla quel giorno ci fosse una persona che ha voluto restare anonima e che ringraziamo naturalmente, ha voluto pagare le spese della lapide che poi abbiamo realizzato. E mi sembra giusto insomma ricordare questo splendido gesto, perché non ce ne sono molti. Su questa lapide abbiamo voluto appunto, oltre naturalmente alla foto di Maria Silvia con lo sfondo della nostra bandiera Rainbow, che è molto simbolica per la comunità LGBT, abbiamo voluto anche riportare una frase di Simone Weil, che molti di voi conosceranno, è una filosofa. Tornando appunto al discorso di prima con Simone de Beauvoir, c'è un piccolo aneddoto che mi piacerebbe raccontarvi, poiché loro frequentavano lo stesso istituto, non so se ne fosse al corrente. Erano due personaggi estremamente diversi. E Simone Weil era sicuramente molto più intimista, più spirituale, cioè era una persona che andava sicuramente oltre l'apparenza. Appunto Simone de Beauvoir cerca insomma di agganciarla mentre lei cammina con i suoi libri nel cortile di questo istituto e voleva scambiarci due parole. Ha fatto molta fatica appunto a contattarlo, volevo riportare appunto che cosa era stato detto tra le due, perché lo trovo molto interessante anche per far vedere un po' nonostante fossero due filosofe, nonostante si chiamassero entrambe Simone, erano proprio due mondi, due visioni del mondo completamente differenti. E appunto loro si incontrano nel cortile della Sorbonne. Dov'è che aspetta? Solo un secondo. Allora, per rimproverare Simone de Beauvoir la letargia, l'indifferenza e la competitività nei confronti delle donne, che lei esprime diverse volte appunto nel suo libro più conosciuto, e nonché l'ordinario desiderio di essere solo un altro ennesimo uomo tra gli uomini. Lei parla così, insomma, delle lesbiche. Mi sono sentita anche un attimino in soggezione rispetto a questo modo di vedere, perché insomma, ripeto, contestualizziamo, sono altri anni, eccetera, eccetera, però insomma mostra chiaramente la personalità di queste due donne. E allora appunto si incontrano, scambiano due parole, e dov'è che gli diceva appunto che sì, se vuoi dire due parole intanto che lo cerco, così giusto per fare lo spot. Allora approfitto per fare una domanda io a Lorenzo. Grazie a lui è stata fatta appunto questa copertina. E questa copertina, questa foto ha una storia alle spalle, e quindi adesso vorrei che Lorenzo ce ne parlasse di cosa è successo, perché all'inizio Maria Silvia non voleva essere fotografata, e quindi adesso sentiamo Lorenzo cosa ci racconta. Beh, Maria Silvia era una presenza della città che tutti la conoscevano. Spesso io l'ho trovata al bar che si beveva il caffè, però non sapevo dove viveva. 2014, mia mamma entra in casa di riposo e mi trovo Maria Silvia in casa di riposo. Era l'estate, sì, luglio del 2014. Ottobre 2014 c'è una sfilata di abiti da sposa alla Villa Armonia. E io vedo Maria Silvia. Avevo chiesto se volevano le foto per questa sfilata, mi avevano detto di sì. E quel pomeriggio mi trovo Maria Silvia, tento di fotografarla, ma mi guarda con due occhi e mi fa no. Per cui, proseguito il mio lavoro, non l'ho fotografata. Quei mesi, trascorsi mesi, io l'incontravo tutti i giorni, la salutavo, mia sorella gli portava i pacchetti di sigarette, mia sorella si fermava anche mezz'ora a chiacchierare con lei, che non so cosa si dicevano, anche perché mia sorella ormai non sta bene, per cui non è neanche possibile chiedergli. Col tempo, pian pianino, sono riuscito a fotografarla, di sfuggita, cogliendo qualche attimo. Arriviamo al 2018. Organizziamo i ritratti di tutti i residenti della casa di riposo. E sono lì che fotografo, ho fatto il set, la luci e tutto quello. Me la trovo di fronte con la sedia a rotelle, mi guarda, mi fai anche a me la foto? Sono rimasto, ho detto, va bene. E lei con la sua sedia a rotelle se l'è spinta da sola, si è posizionata nel set, gli ho scattato credo 5 o 6 scatti, adesso non mi ricordo quanti sono, ha preso la sua sedia a rotelle e se n'è andata. Questo è lo scatto, sembrava quasi che lo chiedesse, perché ce ne sono altri oggi, ce ne sono anche di inedite che si stanno proiettando, e l'avevo colta anche con San Nicolò, che proprio aveva il sorriso, vedevi che voleva essere fotografata, però che ti chiedesse mi fai la foto anche a me non era mai successo. Lasciava qualcosa, come ha detto prima, lei stava seminando, stava lasciando le sue bricioline, stava seminando il suo percorso. Grazie Lorenzo. Vado alla fine, erano i miei appunti, scusate l'interruzione. Allora, c'è Simone de Beauvoir in questo cortile appunto che incrocia la Simone Weil. Simone Weil, che aveva appunto una formazione anche piuttosto marxista per alcune questioni, e dice che bisogna fare la rivoluzione per poter dar da mangiare a tutti, mentre Simone de Beauvoir la incalza dicendo che non è la felicità che deve rincorrere l'uomo, ma l'uomo deve avere un senso da dare alla sua esistenza. E la Weil le risponde che evidentemente lei non ha mai avuto fame. Ecco, giusto per far vedere insomma la capacità di analisi e di pensiero delle due donne, decisamente differente. E abbiamo tantissime foto in questa mostra, e ne avevamo altre e abbiamo fatto una selezione proprio perché ci sembravano quelle più più significative, insomma, quelle che rendevano un po' più anche il carattere particolare ed eclettico di Maria Silvia. La vediamo lì, per esempio, che suona il violino. È stato anche quello un'occasione particolare. Vorrei che Donata ci raccontasse due parole di come è avvenuta quella foto. Io ho conosciuto Paolo Parmegiani. E lui è dov'è? Ciao! È presente in sala. Lo devo ringraziare perché mi ha regalato la possibilità di vedere Maria Silvia, perché c'è uno spezzone, un video piccolino in cui si vede Maria Silvia danzare, entrare in un cerchio mentre lui stava suonando il violino, sedersi al suo posto e poi devo dire, mi emoziona ancora. Ho avuto la possibilità, appunto, di vedere Maria Silvia, come si muoveva, com'era, e la cosa affascinante e strana è stata che mi sembrava di vedere un'amica che non vedevo da lungo tempo. Quindi sapevo che si sarebbe mossa così, che avrebbe fatto quello che avrebbe fatto. Quella foto in particolare, appunto, Paolo ha prestato il violino a Maria Silvia perché lei voleva tenerlo in mano. Paolo, già che sei qui questa sera, potresti raccontare tu quell'aneddoto? Te la senti? Facevo musicoterapia a Villa Armonia e a volte di solito stavo in una stanza riparata per avere un po' di, come si può dire, un po' di intimità con gli anziani, e delle volte invece la sala era occupata e stavo fuori dove passano avanti e indietro le persone. E a volte, molto raramente, passava Maria Silvia, e una volta si era fermata quando suonavo Vivaldi, perché appunto le piaceva la musica classica, e alla fine mi aveva anche detto che le piaceva l'inverno. E quindi ho visto che guardava il violino. E un'altra volta, questa è stata un'altra volta ancora, alla fine di tutto, dell'incontro, viene e mi chiede di provare il violino. E allora lo prova e poi dopo mi chiede anche di farle una foto. Quella che si vede è fatta con un cellulare, proprio. E ha chiesto questa foto qua, e poi un'altra volta lei ha ricambiato facendomi lei una foto, e io ho una fotografia che è stata stampata lì in casa di riposo su un foglio di carta, e lei mi ha scritto una dedica, che appunto a Paolo Villarmonia, perché a lei piaceva fare fotografie. Difatti, in questo video che diceva Donata, lei entra dentro con una macchina fotografica e fotografava le varie persone intanto che ascoltava, che suonavo. E aveva questa passione della fotografia, penso anche da giovane. Ho raccontato un po' tanto di più. Sì, sì. Comunque, appunto, è una foto che difatti si vede che lei mi guarda e che voleva, appunto, che mi ha chiesto come si teneva il violino. Lei non era violinista, l'ho un attimo impostata per fare la foto. E un'altra cosa per me importante, se posso dire, è stata di un 8 marzo di qualche anno prima. Al suo funerale si è sentita alla fine la sua voce. Io lavoro con le canzoni, e c'è stata una volta che cercavo una canzone per l'8 marzo, e allora non sapevo a chi chiedere, e mi è stato detto: prova a chiedere a Maria Silvia. Allora sono andato da lei e ho chiesto: ma c'è una canzone che potrebbe andare? E lei ha cominciato a cantare, non so se l'avete mai sentita, siamo in tante, siamo più della metà. E poi dopo le ho chiesto qualche notizia in più sulla canzone, e lei mi fa: questa è la canzone delle femministe di via Pompeo Magno. E io, che non ne sapevo niente, pensavo fosse una via della zona industriale di Bolzano. Sono andato a guardare, ho detto: ma via Pompeo Magno non c'è. E quindi c'è questo aneddoto, c'è questa registrazione che si sente, in cui lei dice, e parla anche del libro, l'altro libro che si vedeva, questo di Samona Savelli. Ecco. Ho detto tutto. Grazie mille. Sì, perché Maria Silvia è stata anche scrittrice, oltre ad aver fatto un compendio di matematica, l'insieme e la matematica, che è stato pubblicato da Zanichelli nel 71, era assai avanti per l'epoca, e ha scritto anche un piccolo libro, I movimenti omosessuali, ed è una raccolta di testimonianze. Mi sembra che ci sia una foto da qualche parte che abbiamo appuntato, sì, lì in fondo. Poi se volete fare un giro e dare un'occhiata, insomma, la mostra merita, anche perché abbiamo fatto appunto un gran bel lavoro. Volevi dire qualcosa tu prima? Ti passo il microfono. Sì, Maria Silvia amava la fotografia e mi sarebbe piaciuto che al posto di queste ci fossero le sue. Purtroppo lei aveva una macchina fotografica, però si era rotta e quelle digitali non sono state salvate le foto. E questo è un peccato. Io l'altro giorno pensavo a un personaggio che assomiglia molto a Maria Silvia, Vivien Maier, non so se qualcuno la conosce, una vita abbastanza simile a Maria Silvia, una bambinaia statunitense, nata nel 26, morta nel 2009. Lei tutti i giorni usciva, scattava delle foto e le sviluppava lei nel suo bagno di dove viveva. Muore praticamente in povertà, viene trovato questo baule pieno di foto e lei diventa l'icona della street photography. Io ho avuto l'occasione di vedere un po' di foto, un paio di mostre sue, veramente qualcosa di molto molto rivoluzionario per l'epoca, anche per il tipo di macchine fotografiche che lei usava, perché non era una macchina facilissima da usare. Ecco, oggi mi sarebbe piaciuto vedere le foto di Maria Silvia. Io avevo ben un progetto in sala, in casa di riposo, di lasciargli una macchina e vedere cosa faceva, però purtroppo non ci siamo riusciti, purtroppo le cose sono andate diversamente. Però sui muri mi sarebbe ben piaciuto vedere qualcosa che scattava lei. La sua passione era la macchina fotografica. Infatti quando vedeva la mia diceva: bella macchina, bella macchina. Sì, sicuramente ci sarebbe piaciuto vedere anche un po' per capire chi ci stava al di là della macchina fotografica, non solo le foto che scattava, ma la scelta dei soggetti è sicuramente molto indicativo della sua personalità. E, sicuramente sia le immagini, le foto, il cinema, ma appunto come Donata ci racconta anche la scrittura, sono sicuramente uno dei veicoli di cultura che meritano di essere approfonditi, e speriamo che ci siano sempre più persone capaci, perché non è da tutti, insomma, fare un buon libro o fare delle belle foto oggi. E, volevo dire due parole riguardo la capacità di lettura degli italiani. Volevo riportare qualche dato statistico. Il 28% di italiani tra il 16 e i 65 anni, peggio di noi soltanto la Turchia, con il 46% in Europa, sono analfabeti funzionali. Dati OCSE del 2019. Come saprete, l'analfabetismo funzionale è proprio legato all'incapacità di comprendere un testo scritto. Mi piacerebbe che questa ricerca fosse aggiornata al post-Covid, perché secondo me questi dati subirebbero un grande cambiamento, secondo me sarebbero molto più alti. Ci auguriamo, insomma, che il contributo che Donata dà alla letteratura italiana possa aiutare, insomma, soprattutto i giovani, perché secondo me questa è una storia che va letta soprattutto dai giovani, e contribuirà, insomma, a veicolare un certo tipo di messaggio e un certo tipo di cultura. E volevo invitare appunto Donata a leggere una poesia scritta da Maria Silvia, perché lei, oltre alle varie cose, faceva appunto, scriveva anche poesie. Sì, mi sembrava giusto ricordare che Maria Silvia era anche una poeta. Io dico poeta perché poetessa proprio non mi piace, e siamo riusciti a recuperare due sue poesie. Una è abbastanza lunga, ma è presente nel libro. Vi leggo la seconda, che è corta, è quella che ha dato il titolo al libro. Te lo dico io perché non ci credi. È solo un pugno di polvere. Un giorno mi gonfiai tutta. Avevo respirato un poco di quella polvere. Nelle mie vene scorreva polvere. Ero morta, ero polvere. Un giorno ti ho amato. Avevo respirato un poco di quella polvere. Ieri la mia casa era piena di polvere di gas. Era una camera a gas. Oggi tutto quel gas, tutto quell'amore è diventato nausea. Te lo dico io, è solo un pugno di polvere. Sarà solo un pugno di polvere. Ed il coraggio verrà da un poco di quella polvere. E direi che il coraggio è arrivato. È arrivato anche Donata a scrivere un libro su Maria Silvia, ispirata appunto al suo coraggio. E vorrei che qualcuno in sala avesse il coraggio oggi di fare qualche domanda che potrebbe essere utile a capire qualcosa di più su questo libro. Se avete delle curiosità, vi invito appunto ad approfittare insomma della presenza, perché come qualcuno saprà lei viene da Trieste, non è di Bolzano, e ci piacerebbe insomma. Vedo una, sì, appunto. Prego, prego, vieni. Come mi incuriosisce, perché lei è nata a Padova, era a Roma, come mai ha scelto di fermarsi a Bolzano a fare la sua vita? Una, e seconda, così questa, ho visto la tua foto con lei, Sara, che non. Come l'hai conosciuta tu? Come tutti noi, un po' vedendola a Bolzano, raccontaci un po', che mi incuriosisce anche questo. Allora, Maria Silvia ha viaggiato tanto, da Padova si è spostata a Milano quando lavorava alla Pirelli e poi a Roma quando insegnava alle scuole superiori, e poi è approdata qui a Bolzano perché Bolzano l'aveva colpita quando da giovane veniva qui con la famiglia e scalava le montagne. Infatti l'amica Hilda Siller mi ha raccontato che appunto lei le raccontava che da giovane veniva in queste zone e quindi le è rimasta nel cuore questa zona qui. Quindi quando a Roma per parecchi anni, parliamo dal 74 a fine degli anni 70, quindi inizio 80, e lei viaggiava sui treni Roma-Bolzano e dormiva sui treni, ha avuto questa idea geniale di dormire sui treni per essere protetta, per non subire violenze di alcun tipo. Quindi fino a quando le sue amiche del Pompeo Magno hanno potuto aiutarla economicamente pagandole l'abbonamento, lei faceva avanti e indietro Roma-Bolzano. Poi, quando non l'hanno più potuta aiutare, si è fermata stabilmente qui a Bolzano e quindi ha scelto di vivere in questa città che l'ha accolta. L'ha accolta anche se non subito, perché per diversi anni lei ha vissuto per strada e ha subito anche brutte angherie, insomma. Sono sicuramente brutti ricordi che possono colpire una persona già in stato di fragilità. Io ho conosciuto Maria Silvia attraverso Nerina Milletti, che è una storica e una scrittrice nota al panorama lesbico in Italia, e che tramite alcuni testi era venuta a sapere che probabilmente questo personaggio, che era noto negli anni 70 ma di cui poi si era perso le tracce, era finita qui a Bolzano. Quindi, sapendo che io abitavo qui, mi ha chiesto: ma prova a vedere insomma se riesci a recuperare qualcosa, se riesci insomma a sapere dove è finita. E sapevamo che appunto era finita per strada e, come diceva Donata, ha viaggiato a lungo per l'Italia e per l'Europa, prima su e giù da Bolzano-Roma nei treni, appunto per essere protetta e cercare di anche di avere un riparo. E, mi è subito venuta in mente che potrebbe essere stata ospitata da Casa Margaret. Casa Margaret, come qualcuno di voi saprà, è una casa protetta per donne vittime di violenza. E quindi mi sono presentata e ho detto che eravamo comunque un gruppo di donne, perché all'epoca avevo questi contatti in giro per l'Italia, in particolare Roma e Toscana. E ovviamente, giustamente, la preposta mi ha chiesto chi fossi e perché cercavo informazioni su questa persona. Gli ho spiegato che non avevo assolutamente intenzioni minacciose e mi ha creduta, evidentemente sono risultata affidabile, e mi ha detto che aveva sì, sono stato per un certo periodo a casa Margaret, ma poi era stata trasferita e presa in carico dai servizi sociali e finita alla casa di riposo di Viale Trento. Per cui mi sono presentata in Viale Trento e ho spiegato appunto che stavo cercando Maria Silvia Spolato e ci siamo presentate così, molto semplicemente, sapevo chi era, sapevo la sua storia e per diversi anni sono andata a trovarla e le portavo un pacco che le facevamo per Natale, giusto per ricordare che non era stata completamente dimenticata, perché secondo me per persone che hanno questo vissuto, oltre naturalmente alle difficoltà e sentirsi abbandonati dalla famiglia, gli amici eccetera, è importante sentire di non essere dimenticate. E per noi appunto era diventato un rito, l'ho fatto per 9 anni, mi ricordo che mi divertivo moltissimo ad andare al supermercato e ogni anno la conoscevo un po' meglio e le chiedevo se avesse necessità di qualcosa, se le servisse qualcosa di particolare, e ho notato appunto che la sua stanza era piena di scritti che lei appunto stilava attraverso dei blocchi, dei fogli. Sono stati poi raccolti molto ordinatamente dagli assistenti della casa di riposo, però a un certo punto l'hanno cambiato di stanza e questi scritti sono spariti. E secondo me è stata una grande perdita, perché sarebbe stato insomma interessante sapere che cosa lei scrivesse su queste pagine. E così mi sono premunita e gli ho portato anche dei blocchi, delle penne, lei era felicissima. Una volta gli ho portato anche una coperta colorata, giusto per rendere l'ambiente un pochino più, come dire, più accogliente. Non che non lo fosse assolutamente, però lei aveva una stanza sua con un suo bagno e stava benissimo, devo dire che è stata accolta veramente con grandissimo affetto. E quando poi ho saputo della sua morte, ho voluto essere presente al funerale, ho voluto fare un piccolo intervento per ricordarla e ho saputo da qualcuno cose anche un po' antipatiche, perché mi è stato chiesto: ma se sapevi la storia di questa persona, per il movimento LGBT era importante sapere che lei era qui e il contributo che le aveva dato al movimento. Onestamente non mi sono sentita di rendere pubblica la sua presenza, poiché appunto era in uno stato di estrema fragilità e ho preferito dare più importanza alla persona che non a quello che lei era stata. Lei è finita qui, ha scelto la nostra città e a mio avviso ci ha chiesto protezione. E questa è la priorità che io ho dato a lei, e penso onestamente di aver fatto la cosa giusta. Se qualcuno ha altre domande, certo. Allora, quando è morta il 31 ottobre io ero in casa di riposo. Mia mamma non c'era più, però io ero passato a trovare la mamma di un amico che è qui stasera. Ed è arrivata la notizia, io ero lì, c'è stato un attimo di un po' di trambusto, è arrivata la notizia che Maria Silvia se n'era andata. Io sinceramente aspettavo che qualcuno si facesse avanti, o l'amministratore di sostegno o la direzione di Villa Armonia che dicesse qualcosa. Ho lasciato passare dei giorni e poi ho chiamato Luca Fregona, in quel periodo io ero un collaboratore dell'Alto Adige. Gli ho detto: sai, Luca è morta, questo così così così. Al primo momento mi ha detto: ma sì, una barbona come un'altra. Mi ricordo la frase che mi disse. No, gli dico: guarda, così così così. E lì è scoppiato la bolla. E niente, la foto che vedete nei giornali, tutte quelle che mi è stata richiesta praticamente da tutto il mondo. Io non ho mai venduto la foto. Anche nel libro di Donata io ho concesso l'utilizzo, ma non è stato chiesto nemmeno un centesimo. Io ho rifiutato la foto però 3 volte, 2 progetti che non mi piacevano. L'ultima volta è stata per un quotidiano, perché mi è stata chiesta in maniera abbastanza: ci devi dare? Ho detto no. Ecco, su Maria Silvia non è stato guadagnato un centesimo, la foto è sempre stata data gratuitamente, se i progetti erano consoni alla persona non sono mai stati chiesti dei soldi, e nemmeno per il libro, perché l'utilizzo della foto è gratuito, la foto è disponibile anche in rete gratuitamente, logicamente se c'è qualche progetto importante viene chiesta la liberatoria. Mi dispiaceva che Maria Silvia se ne andasse come un cagnolino randagio. È venuto fuori veramente una storia enorme su di lei e non aver dato la notizia mi dispiaceva abbastanza. Luca è stato bravissimo perché ha fatto degli articoli bellissimi. Ecco, questa è la storia un po' come è andata quel pomeriggio. Intanto intendo ringraziare tutte le operatrici della Casa di Riposo che le hanno seguita negli anni, perché sicuramente il vostro è un lavoro prezioso. Maria Silvia non era una persona comune, è patrimonio dell'umanità in questo caso, e la sua storia merita di essere ascoltata e noi siamo qua per questo. Buonasera, grazie. Allora sì, sicuramente è una storia che merita di essere ascoltata. Noi a Villa Armonia, io sono la responsabile della struttura, l'abbiamo voluta celebrare in occasione della Festa delle Donne in una maniera un po' intima, ed è stato bello perché effettivamente c'erano tutte le persone che avevano vissuto con lei anche i momenti di gioia, di allegria, perché abbiamo visto un cortometraggio che conosce probabilmente l'autrice, e il cortometraggio si chiama È pericoloso esporsi, no? E racconta proprio della storia di Maria Silvia. È una regista francese, si chiama Tomasi, è stato bellissimo ed è stato emozionante perché poi ognuno, tra cui anche le colleghe presenti, hanno riportato degli aneddoti, delle cose veramente che io non l'ho conosciuta perché non lavoro da tanto lì, ma mi sono emozionata a sentire, quindi veramente anche quello mi sentivo di riportarlo perché sicuramente un contributo importante, insomma, ecco, in una casa poi che, voglio dire, una residenza per anziani si tende un po' a tralasciare, no? Perché purtroppo nell'immaginario comune è così, e invece c'è veramente tanta vita e questo messaggio deve passare, secondo me. Grazie. Ringraziamo questo intervento che sicuramente è stato è stato sicuramente sentito e condiviso. E se non ci sono altre domande, io concluderei qui. Vuoi dire qualcosa? Sì, giustamente, chi ha piacere di ricevere il libro, Donata si rende disponibile magari per fare anche una dedica. E se volete accomodarvi poi più tardi, sicuramente ne saremo contenti che il suo libro, insomma, sia diffuso. E volevo ringraziare appunto di nuovo il progetto Gocce, che sicuramente è stato un motore importante per questa iniziativa. E con Gocce ci daremo poi l'appuntamento, ci saranno sicuramente altre novità e ve le faremo sapere attraverso i social, attraverso la stampa, eccetera. E vi dico solo la data, se volete intanto appuntarvela, per il 31 di maggio. E voglio ringraziare Lorenzo Zambello per il suo intervento e sicuramente la protagonista di questa serata, che è Donata Milac Milazzi. E voglio ricordare a chi fosse interessato o interessata che il 25 di giugno sarà a Trento a presentare nuovamente il libro, anche perché insomma i nostri concittadini trentini hanno piacere, insomma, di ospitarla anche loro. E poi il 26 invece, il giorno seguente, alle 17 sarà qui alla UBIC, se volete rincontrarla. Probabilmente il 31 ottobre. Vuoi dirlo tu? Abbiamo in programma anche il 31 ottobre al Circolo Cittadino una presentazione. Ci dobbiamo lavorare un attimo, però al Circolo Cittadino il 31 ottobre alla sera ci sarà ancora qualcosa. Ecco, io ringrazio tutte quante e tutti quanti per la presenza qui stasera e vorrei concludere salutandovi con una citazione appunto di lo sapete ormai, ho la passione per Simone Weil. Nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare la libertà dell'altro, citazione che appunto è sulla tomba di Maria Silvia. Grazie a tutte e tutti.